24 mattino. 8:14 minuti e ancora tante cose da dire. La prima, l'ottenuta per Oscar, si dice sempre che si parla delle condanne e non delle sentenze. Bene, oggi c'è una sentenza in qualche modo clamorosa anche rispetto a quello che si è scritto. Per Monte dei Paschi di Siena, assolti Mussari e gli ex vertici, non era vero che avevano depistato gli ispettori di Banca d'Italia. Annullate le condanne di primo grado, l'ex capo della finanza Baldassarri scoppia in lacrime. Per questa storia sono stato 8 mesi in carcere. Allora vedo che si staglia da Milano, ligio, serio, come tutti i giorni, è un giorno di festa, ma lui è lì con il sudore della fronte, questo cranio che trasmette luminescenza, Oscar Giannini. Eccoci qua, però fratello, come tutti quelli che lavorano tutti i giorni, i giorni di festa, insomma c'è gente che fa cose molto più pesanti delle nostre, e un saluto, un abbraccio a loro, a tutti coloro che lavorano assicurando servizi pubblici e così via, e naturalmente... Scriveteci se state lavorando, scriveteci, oggi gli eroi del giorno sono quelli della pasticceria. Di Verona, di San Giovanni, che ci hanno detto siamo qui a cucinare i cornetti, bravi. Ecco, vedi, tu lo so che tu sei sensibile ai dolci, queste cose qua, però non sono un infame. Usi la diffamazione. Io sono su un pensiero poetico. Parlo dei nostri interattori e tu subito a mettere questo aspetto come se fossero gli zuccheri che mi commuovono. Commuove l'Italia che lavora, non gli zuccheri. Un po' anche gli zuccheri. Insomma, mica c'è bisogno di essere così politicamente corretti anche nelle diete. Figurati se ho questo problema io. No, comunque la sentenza che ha richiamato è... richiama, per così dire, uno degli aspetti secondo me su cui invece la commedia quotidiana della commissione di indagine parlamentare ha deviato, cioè la questione di fondo era, doveva essere ed è, come si vede anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, i regolatori hanno fatto quello che dovevano, a b, successivamente hanno detto di aver fatto quello che hanno davvero fatto oppure hanno detto un'altra cosa, tre, che conseguenze trarne per l'architettura dei poteri di Consob e di Banca d'Italia. Ecco, questa sentenza dice che per comprare per una cifra folle Antonveneta, la banca senese dovette poi ricorrere a degli strumenti che in realtà diluivano nel tempo e non dichiaravano nel conto economico annuale i costi spalmati attraverso strumenti finanziari, e così sembrava semplicemente invece un acquisto di portafoglio questo Alexandria e così via. Il punto è che già all'epoca c'è stato pochi che non hanno creduto che Banca d'Italia non lo sapesse. Banca d'Italia ha detto di essere rimasta all'oscuro perché gli amministratori all'epoca, quelli oggi assolti, gli avevano occultato la faccenda, che invece poi misteriosamente apparve in pezzi di carta in una cassaforte della banca anni dopo. Sottolineo che la delicatezza di questa questione è che questa vicenda avviene, e la tesi quindi poi viene sostenuta non solo da Banca d'Italia di oggi, quella guidata dal confermato Visco, i fatti risalgono a quando in Banca d'Italia c'era Mario Draghi. E a questo punto l'interrogativo diventa: ma per perseguire la stabilità bancaria la Banca d'Italia ha ritenuto che fosse corretto non dichiarare i rischi? Ecco, io penso di sì, e non solo in questo caso, ed è un interrogativo che più che tante polemiche sul passato ormai inutili dovrebbe invece, anche se è chiaro che gli accertamenti penali vanno fatti, ma dovrebbe portare la politica a dire cosa cambiamo della cooperazione tra Banca d'Italia e Consob, dei poteri di Banca d'Italia e Consob. Come vedete, tutti problemi molto importanti, perché basta dire il nome di Mario Draghi per capire che l'importanza è di un certo rilievo. Ci sono anch'io, Sergio da Milano, al lavoro, ciao furibondi, mi piace. E c'è anche con noi Gaetano Quagliariello, leader del Movimento Idea, senatore della Repubblica, ex ministro, ex saggio, non dimentichiamolo, della commissione nominata da Napolitano. Ha scritto un libro, Sereno è, scena e retroscena di una legislatura spericolata, lo edita Rubettino, ma è l'incipit, già folgorante, Oscar. Questo è un libro che è quasi un diario. Ho riflettuto a lungo sull'opportunità e sulla convenienza di pubblicarlo e ne ho concluso che probabilmente non sarebbe stato né opportuno né conveniente, e anche per questo mi sono deciso a farlo. Buongiorno Quagliariello. Buongiorno. Buongiorno. Ma si scrive così questa cosa, questa prosa così piena di autoironia e anche di retroscena? Per esempio, il primo ritiro del governo Letta, il premier fedele al suo proposito porta la squadra del governo in ritiro presso l'abbazia di Spineto a Sarteano, una località non lontana da Siena, 2 ore di viaggio alla capitale, Quagliarello lì sul torpedone, invece di dire che è quasi preso da questo trip mistico, dice: la cosa, confesso, mi rende nervoso perché mi impedisce di seguire le gesta del Napoli. Beh, insomma, sono divertenti questi aneddoti, eh? Sì, sono aneddoti. Danno un'idea, disincantata. Il libro non è un libro di gossip. Certo. Io l'ho voluto scrivere perché penso veramente che questa sia stata una legislatura spericolata. E penso anche che con questa legislatura bisogna fare i conti per ripartire. Perché l'Italia tante volte ha messo la propria storia come fosse cenere sotto un tappeto e credo che ne abbia pagato rischi, abbia pagato prezzi non secondari. La rivelazione che ha fatto titolo sul Corriere della Sera, sulla tormentata, a proposito di storia, giornata dei 101, c'ero quel giorno in quel transatlantico ribollente, c'è anche Quagliarello ovviamente che sente in un capannello del transatlantico Alfano raccontare di aver sentito Renzi al telefono e di aver ascoltato una voce beffarda assicurare che avrebbe dato tutto il suo contributo alla giubilazione di Prodi. Ma è sicuro di questo derelato Quagliarello? Questa è la scoperta dell'acqua calda. Sono tre righe, io non pensavo fossero tra l'altro così importanti e servivano a dare, diciamo, la cifra psicologica di un leader in ascesa. Però Renzi ha negato e ancora nega, non c'è nessuna prova che sia stato fra i 101. Se fosse stato un giubilatore di Prodi cambierebbe un po' la storia della sinistra. Quindi non sia troppo candido. Lei sa il peso di questa rivelazione, non lo conosce. Quello che voglio dire è che se noi contestualizziamo quell'avvenimento, Renzi non era ancora il leader del PD, era il capo di una minoranza che aveva subito l'affronto di non essere nominato tra i grandi elettori, perché allora era semplicemente sindaco di Firenze e Alfano era il segretario del PDL. E nell'offrirci, diciamo, quel piccolo spaccato ci voleva dire qualcosa di un personaggio che noi non conoscevamo. Poi, se vuole la mia opinione, che poi tra le altre cose insomma si fonda su forti basi matematiche, è molto probabile che una parte dei parlamentari renziani non abbiano votato Prodi. D'altra parte, allora erano una minoranza, erano 25, 28, non erano 101. E dunque, insomma, tutta la responsabilità da qualche parte i voti sono venuti. Allora, ultima cosa con cui passo la palla a Oscar, questa è divertente. Oscar Quagliarello è chiuso nel suo studio prima della scissione di Forza Italia e decide di fare un ultimo passo, di parlare con Berlusconi. Allora chiede alla segretaria di chiamare il presidente al telefono senza ulteriori specificazioni e di passarle. Dopo qualche istante si trova al telefono Quagliarello con il presidente, sì, ma non con Berlusconi, ma con il presidente della Repubblica. Allora io non so cosa dire, scrive Quagliarello, improvviso una supercazzola. Non c'è più tempo per sentire Berlusconi, andate al Palazzo di Santa Chiara e si arriva alla scissione, lei non riuscirà mai a interloquire col Cavaliere prima di questo gesto drammatico. Ma davvero la politica può essere anche governata dal caso, come in questa vicenda? Assolutamente, la politica ha una sua struttura, ha diciamo una lunga durata, ma poi le contingenze sono fondamentali e devo dire il fascino della politica è proprio nella interazione tra le cause strutturali e le contingenze. Devo dire, questo appunto gli storici lo sanno meglio di tutti, io non mai aderito né a una scuola né all'altra, cioè né a quelli che pensavano che la guerra mondiale dipendesse da cause economiche fondamentali, né chi attribuiva tutte le cause allo sparo di Sarajevo. È evidente che la capacità dell'interprete è proprio di capire quanta parte di struttura c'è, quanta parte di contingenza, di caso, a volte appunto anche di caso beffardo, come in questo piccolo caso. Allora, Oscar Giannino, mentre Andrea Bologna ci scrive: ci sono anch'io, lavoro nel mondo dello sport. Vai, vai, lavoratore. Ai lavoratori. Allora, la domanda che io faccio al nostro ospite Quagliarello, intanto salutandolo, è questa: è uno degli interrogativi che io mi trascino tutta la Seconda Repubblica, ormai è arrivata alla fine, qualunque cosa e comunque si debba definire quello che avviene adesso. Io non ho mai capito se le persone che fanno riferimento a quest'area culturale, che è quella di Quagliarello, insomma, dei moderata, liberal, insomma, come la vogliamo definire, e la vita difficile che hanno avuto sempre e anche adesso, la mia domanda è questa: dal punto di vista della rappresentanza culturale, cioè della solidità di un punto di riferimento che non debba cambiare una o più volte dentro la stessa legislatura, per così dire. Allora, la mia domanda è questa: ma dato questo dato di fatto che si vede, si capisce la fine che fa Alfano, la fine, voglio dire, la decisione che ha preso rispetto a un partito che si spacca per l'ennesima volta, ma tante volte sono accadute queste vicende qua, in quell'area culturale. Allora la domanda è: ma sono le leggi elettorali che segnano la debolezza di quest'area, o le leggi elettorali sono deboli perché è debole l'azione politica di quest'area e si accuccia una volta che sta in Parlamento sotto i leader dei grandi partiti? Questo lo dico perché poi è un po' il problema dell'anomalia di queste coalizioni e anche dei partiti che le guidano in Italia rispetto al resto d'Europa, un po' meno in questi anni perché anche nel resto d'Europa la protesta antisistema ha diverse forme, ma c'è oramai in Francia, c'è in Germania, c'è in tutto il gruppo di Visegrad in Est Europa. Ma resta il fatto che noi abbiamo una coalizione di centrosinistra con un partito socialista un po' anomalo, perché è questa la storia del tardo arrivo in quell'area del PD, e rispetto all'area popolare europea, insomma, Forza Italia e Berlusconi non devo ricordare quanto sia diverso e anomalo. Allora, Quagliarello, com'è? Di chi è la colpa? Delle regole sbagliate, o le regole sono sbagliate perché quest'area non ha saputo disegnarle giuste? Mi permetti di fare un passo indietro? Perché ho sentito la prima parte della trasmissione, volevo semplicemente dare una notizia e poi ne riparliamo, perché sono assolutamente d'accordo con la tua analisi. Noi stiamo preparando, noi l'idea, stiamo preparando un disegno di legge che ovviamente ha un significato simbolico sui rapporti tra Banca Italia e Consub, perché credo che al di là, diciamo, di tutte le interpretazioni, questo è il problema che è venuto alla luce con le banche. Scusami, invece vengo alla domanda. Io metterei da parte le leggi elettorali. In Italia si ha un brutto vizio, si assegna alle leggi elettorali un peso eccessivo, un peso che non hanno. Insomma, le leggi elettorali sono degli strumenti per tradurre i seggi in voti e dipendono dal loro accordo col sistema istituzionale e anche con le contingenze storiche. Cioè, non ci dimentichiamo che un uomo come Sturzo, che è stato il fondatore, diciamo, della proporzionale in Italia, o Salvemini, in un'altra stagione sono stati per il maggioritario. Io credo che la difficoltà di quell'area dipende da due cose. Una è tipicamente italiana e un'altra invece è una cosa che, come giustamente è stato notato, ha una dimensione più ampia. Quella tipicamente italiana è la crisi dei partiti. I partiti in Italia sono stati fortissimi per un periodo, ora sono debolissimi e senza regole. Quindi la parte centrale dei due partiti è quella, diciamo, senza soldi. È quella più esposta. Perché, insomma, se tu vedi negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, ci sono nei grandi partiti, insomma, zone che collimano e che sono anche storicamente le più importanti, perché interessano quell'elettorato che si sposta più facilmente e che magari dà la vittoria all'uno o all'altro. Ma questi rimangono nei loro partiti perché i partiti sono regolati, perché sono delle comunità rette da, diciamo, una umanità condivisa, ma anche da regole chiare. E tante volte i repubblicani, diciamo, tra virgolette, moderati sono stati in minoranza nel loro partito negli Stati Uniti, e questo si potrebbe dire anche per quel che riguarda i conservatori inglesi, oppure dall'altra parte prima c'erano i liberali e poi i laburisti. Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione è che insomma questi moderati, che poi sono quelli che fanno riferimento maggiormente al ceto medio, quelli che hanno sempre identificato il proprio benessere con il benessere della nazione, quelli che hanno lavorato per stare un po' meglio e per far star meglio i loro figli, sono quelli che sono stati più colpiti dalla crisi. Oggi, diciamo così, I moderati non sono più moderati, sono incazzati. Sono più incazzati di tutti. Come no? Sono più incazzati di tutti. No, ma... E quindi bisognerebbe che quelli che li hanno rappresentati storicamente abbiano un po' meno pigrizia intellettuale e aggiornino anche le loro ricette, e abbiano il coraggio anche di contaminare il loro liberalismo con altre culture, perché se vogliono capire il terzo millennio, i problemi emergenti, questo è assolutamente necessario. Quagliariello, tutto questo è lo scenario, ma ci dà un'interpretazione del ritiro di Alfano? Io penso questo, che il ritiro d'Alfano da un punto di vista personale è un atto che va rispettato, probabilmente è stato fatto anche con una certa dose di dolore, e quindi in qualche modo è un atto stimabile. Dal punto di vista politico sancisce una sconfitta, e questo fondamentalmente è stato il punto di rottura tra lui e me. Non c'è mai stato nulla di personale, ma appunto soltanto qualcosa di politico. E lui ha puntato a che quest'area potesse entrare e stabilirsi all'interno della parabola renziana, trovando uno spazio. Io ritenevo questo impossibile, perché ritengo Renzi assolutamente non interessato a una politica di alleanze, a una politica di definizione, diciamo tra virgolette, culturale di un percorso, cultural politica, e ritenevo che questo progetto avrebbe dovuto invece ricollocarsi stabilmente nel centrodestra, finito il tempo delle E sono i vostri due destini opposti. Allora, 8:31 minuti, salutiamo Gaetano Quagliariello, il suo libro pubblicato da Rubbettino, pieno di aneddoti, scritto con grande ironia, comunque bello per chi ama il retroscena della politica. Buongiorno. Grazie. E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, caro Oscar, e poi abbiamo un lampo dei nostri ascoltatori che parlano della nostra polemica di ieri sugli stipendi, e c'è una grande conferma, l'hai letta, Oscar, sulla prima pagina del Sole: mancano non 60.000 tecnici per lanciare il lavoro 4.0, ma ne parliamo dopo la pubblicità. Anche di altro. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. '24 mattino. 8:36 minuti, 44 secondi, siamo qui per accompagnare i comunque svegli di oggi che lavorano. È bellissimo, Alberto da Pisa, per voi anche oggi in agricoltura si lavora, semina del grano per dare da mangiare a tutti noi l'anno prossimo. Semina del grano, un grande abbraccio a te. E la notizia che domina pagina 5 della Stampa, Oscar, apri le orecchie: 2 milioni di domande per poter raggiungere i 20.000 posti di lavoro da bidello segretari nella scuola pubblica. La notizia arriva dalla Stampa ed è, ci deve fare un po' riflettere, solo 4.000 invece gli iscritti al concorso per 2.900 presi. I numeri del mercato lavoro italiano li conosciamo. Sarà un concorso che durerà 20 anni. Sentiamo meno, le vostre voci di ieri e torniamo, cani e gatti, le vostre voci sul stipendi, retribuzioni, salari. Well, we know. Siamo Maria sono un direttore di banca con circa 40 anni di anzianità. Il mio stipendio è 2100 euro netti al mese. Un direttore di banca guadagna 2100 euro dopo 40 anni di servizio. Uno stipendio da 1100 euro per un giovane che deve fare esperienza sia un bel modo di iniziare. Sono Stefano, chiamo dalla provincia di Venezia, sono padre di due figli, tutti e due laureati, uno lavora a 700 euro lordi mensili e uno a 500 euro lordi mensili come stage. Io sono un archivista, la gente non sa di che cosa parla. Io quando ho iniziato a lavorare prendevo 700 euro al mese. Con laurea, master e scuola di specializzazione, lavoro per una cooperativa da 10 anni e 1590 euro lordi me li sogno. Va bene, con i Talking Heads, le vostre bellissime voci, la nostra segreteria telefonica 02 30 22 44 92, l'Italia che lavora è il titolo ideale di questa rubrica dei cani e dei gatti. Raccontateci quanto viaggiate, quanti chilometri, perché anche questo ci interessa. Ieri sono arrivate tante segnalazioni, dicevamo che la media di 1.200.000 tedeschi era 150 chilometri al giorno, è arrivato un messaggio: così pochi. Oscar. Anche la realtà italiana intorno alle grandi conurbazioni è fatta di pendolari che passano. No, ma mi piaceva la sfida, certo, così poca, 150, si fanno così. Senti, fammi spezzare una lancia a favore di quella che considero la grande conferma di una delle tante flotte italiane di questi anni. Tu ricordi, certo, come la legislatura. Nelle tante frottole di cui vive la politica italiana, che però poi vengono smentite dai fatti e talora anche dalla tanto da tanti odiata Europa, che io invece poi difendo, anche se piena di critiche giuste, l'ordinamento europeo. Che cosa avviene? Avviene che la famosa promessa del 2014, in tre mesi risolveremo il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione ai suoi fornitori e debitori commerciali, sancita da Vespa con tanto di impegno ad andare a piedi al santuario. Sì, certo. Perfetto. In pellegrinaggio. Bene, in allora, pellegrinaggio. L'Unione Europea ci ha deferito alla Corte di Giustizia. Ebbene, perché ha fatto. Malgrado è una cosa tutti, a nostra tutela. E va detto, le risorse che sono state liberate, eccetera, eccetera, eccetera, però la pubblica amministrazione continua naturalmente a non pagare nei termini dovuti e quindi ad andare a 100 giorni, ma a 100 giorni, non solo rispetto ai 60 in cui dovrebbe essere, ma con punte di centinaia e centinaia, se non 335 Napoli, esatto. Allora, 335. Di cosa parliamo, cari politici che fate le scommesse in televisione sbruffalde? Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che è meglio non farle, perché ed è meglio soprattutto, avete stanziato tanti soldi, vero, ma il problema è, come sempre in Italia, poi stare attenti, certosini nell'attuazione delle cose che si decidono, perché altrimenti poi resta tutto come in un tubo che non scende e poi voi vi dimenticate, perché tanto la promessa politica fatta in televisione sono passati anni, iniziate a pensare: ma a chi volete che importi più niente? Importa, perché la gente i soldi poi continua a non vederli e l'Europa è inesorabile, fa il suo mestiere, vi riduce a sbugiardati. Tutto qui. Repubblica, pagina 39, lavoro precario record storico, ma si litiga sui tagli dei contratti a tempo. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Abbassare il volume della radio, che c'è un eco ieratico sul fondo. Spenta addirittura. Ah, bene, ottimo. No, io volevo intervenire sul discorso che mancano i tecnici nel mondo del lavoro. E specializzati su Industria 4.0. Esatto. Ma premesso che, diciamo così, questi ragazzi non hanno niente da invidiare come studio. Secondo me, almeno qui nel nord, gli istituti tecnici, i periti industriali, i geometri, eccetera, non sono certo inferiori a quelli dei licei. Allora, vorrei sottolineare ancora una volta che molte famiglie non mandano i ragazzi. È così, come dice lei. Vorrei solo ricordare che Ferrari e Marconi vengono dagli istituti tecnici di Bologna e di Modena. È così, ha ragione lei. C'è un pregiudizio culturale figlio di questo bombardamento ideologico della sinistra, lo dico quattro volte apposta per sottolineare. Unita sì, alla sinistra cattiva, dai, no, Oscar, fammi finire la frase. No. Unita alla destra, ma sì, invece la sinistra ha sposato l'idea della destra della riforma gentiliana, cioè dell'idealismo, perché il troncone idealistico è quello che unisce filosoficamente la destra e la sinistra, Luca, è così, e ha sposato questa idea che poi alla fine il liceo voluto da Gentile per le classi dirigenti elevate, ma perché non è così era l'ha sposata negli anni 70 la sinistra cosa. Dicendo che il liceo doveva essere aperto come la scuola di tutti che e diventavano classi dirigenti, di oggi l'operaio vuole il figlio dottore, è sbagliato in radice, perché le professioni tecniche e quindi la formazione professionalizzante è quello l'ascensore sociale, non la vecchia idea dell'idealismo di destra e di sinistra, il liceo, il pritaneo, la stoa poichile, capite, che è una roba antica come tutto ciò che è hegeliano, come devo dire, antica perché crede che ci sia lo spirito della storia in marcia collettiva verso lo stato etico. Ma scusa, tu l'idea che, della licealizzazione è Oscar, questa roba qua. Che liceo hai fatto? Io ho fatto il liceo classico, infatti si è visto. E ti è servito nella vita il liceo classico? Mi è servito, sì. Tu vuoi lo difendo, per gli altri ma, la scuola tecnica e per te la scuola classica. Ma scusami, se io fossi un buon esempio di percorso di occupabilità avresti ragione, ma sono un pessimo. Non mi pare che... Ma sei no, un ottimo esempio sono di un pessimo esempio di occupazione, perché anch'io ho aderito da giovane all'idea e devo dire mi è piaciuta la materia classica e così via. Dopodiché sono andato a lavorare per anni subito e sono rimasto a salari bassissimi per tantissimi anni. No. E signori, poi alla fine non voglio rivelare cifre, ma io sogno di essere il 7,40 di Oscar Giannino. Secondo me perché come tanti vi illudete. E sono una factory World. Perché devo essermi inventato altri tanti mestieri, ma più avanti nella vita, perché nel frattempo la competenza non me l'aveva data il liceo classico, e sono molto sincero su questo. Grazie all'istruzione che hai avuto hai potuto apprendere. Ma sono d'accordo, però guardate, non mandate i figli ai licei, abbiate pazienza. Mandateli ai licei. Ecco, va bene. Pensate invece ad esaminare con grande attenzione percorsi professionalizzanti, che in Italia lo sono troppo poco. Ripeto, Alessandro... abbiamo iscritti all'ITIS in Italia, all'Istituto Tecnico Superiore, che è la fascia più elevata, l'Accademia degli Istituti Tecnici Industriali, 7.600 studenti in Italia, in Germania 760.000, e fatevi conto perché lì non restano disoccupati e da noi sì. 800 24 00 24. Alessandro, lei ha chiamato per farci litigare, lo sapeva. Anche nei recentissimi test universitari, comunque volevo ribadire questo, che fanno le domande sono incentrate quasi esclusivamente su argomenti che nei periti, nei ragionieri, nei geometri non vengono mai trattati. Infatti... è una vera illegalità. Oh. Ma lei a scatola chiusa vorrebbe la mia dichiarazione di redditi senza sapere al buio o quella di Oscar? Ma potesse scegliere. Ma figurati un po', a lui cosa gliene importa? Ma non per la mano. Alessandro se n'è andato. Ma se n'è andato perché di fronte a questa domanda. Ma era in imbarazzo, ma avrebbe scelto la tua. E fotocopiamola, mandiamola a tutti, affiggiamola. Tanto guarda, il punto è che il massacro fiscale è veramente... Adesso ci sono nuove novità, ma non voglio burgare su questo. Vi do appuntamento per domani dalle 10 alle 12, cari ascoltatori, perché cambia per la mesi... pubblicità ad altri programmi. La faccio, certo, figurati se non la faccio. Programmi di altri conduttori. Sono di Oscar Fulvio invece che di Gianni Noiter. Vabbè, detto questo, no, ma perché siccome cambia ulteriormente gli obblighi di fattura B2B tra privati, la legge di bilancio è un cantiere fiscale ogni giorno che inventa schifezze. Vabbè, è una questione un po' tecnica, però volevo dirti, hai visto che stamattina alle 7:30, dopo una lunga maratona notturna di trattative, l'annuncio che c'è l'accordo, il preaccordo almeno per la Brexit tra Regno Unito e l'Unione Europea, e io non ci speravo quasi, invece c'è sia sui diritti reciproci dei cittadini, sia su quanto deve pagare la Gran Bretagna e sia soprattutto sull'Irlanda del Nord, che pare continuerà ad avere accesso al mercato unico, e quindi i miei amici scozzesi anche loro potranno dire no, un momento, se l'Irlanda del Nord continua ad avere accesso a una non frontiera con la Repubblica d'Irlanda, che resta ovviamente europea, allora anche la Scozia vorrà qualcosa di simile. Vedo questa cosa come l'inizio di altri nuovi problemi, ma ne sono contento perché io mi batto a fianco degli scozzesi da questo punto di vista. Non so come la pensi tu, comunque l'accordo c'è, perché è rischiato di deragliare tutto. Credo che alla May questo accordo a casa sua comporterà tanti altri problemi, ma vedremo, insomma. Allora, era un giorno del 1978, nella sua casa di Cagliari, mio nonno mi disse: metti sul grammofono l'Andrea Chenier. Era, diceva ancora grammofono, malgrado fosse un giradischi, e tutti sappiamo che la lirica è una delle grandi passioni nazionali, ma c'è un giorno all'anno in cui diventa uno dei più grandi eventi e ci serve un grandissimo critico, Armando Torno, che saluto qui con noi, per spiegarci come è andata veramente dal punto di vista letterale, scenico, dei protagonisti, questa grande prima dell'Andrea Chenier. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa prima, dunque, l'unica assente era la politica, perché l'inno nazionale probabilmente prevedeva le altre istituzioni dello Stato, invece c'è stato uno stretto manipolo di ministri asseragliati più o meno nel Parco Reale. E quindi un'opera politica che alla fine non ha avuto... Non politica. Interessa alla politica, beh, perfetto. Un'opera in mondovisione, tra l'altro, quindi era anche un'occasione, che so io, per far conoscere meglio l'Italia, ma indipendentemente da questo... La Boschi c'era, però, ora abbiamo... c'era lei sola. Sì, diciamo. Per carità, poi un grasso annunciato mi pare non sia arrivato, non c'era né Presidente della Repubblica né Presidente del Consiglio, non c'erano molte situazioni, insomma... di quelli che di solito in questa prima si vedono. Non dimentichiamoci poi che lo spettacolo è stato degno, 11 minuti di applauso, soltanto qualche boom mentre la gente andava a prendere i cappotti, segno evidente di qualche ritardatario, però Chenier ha fatto un eccellente lavoro, possiamo dirlo così o in questi termini, in quanto lui sta studiando da oltre 30 anni l'Andrea Chenier e l'ha diretto anche negli anni 80, e poi l'ultima volta alla Scala 32 anni fa è stata proprio sotto la sua barchetta l'esecuzione di quest'opera. Poi c'è da dire che Faletto su Repubblica ha detto: la musica supera le parole, sei d'accordo in questa messa in scena? Le parole nella partitura di Giordano, perché è una partitura molto come dire, molto complessa, infatti piacque subito a Mahler. Mahler lo eseguì un anno dopo, e quindi è un'opera che, dove la musica, per dire, non sfoggia, non si sente, ma c'è un gran lavoro musicale. Poi molte volte c'è il contrasto tra il mondo aristocratico che sta festeggiando e la rivoluzione che si prepara fuori, che sta costruendo la ghigliottina. Magari Giordano ti fa accorgere con un violoncello, con un tocco, con una raffinatezza che andrebbe approfondita e riscoperta. Che dire, il cast, beh, c'è una Netrebko che appunto era Maddalena di Coigny, che è veramente strepitosa, insomma, adesso la Netrebko ha dei filati, ha delle cose, può usare la voce come vuole, può una presenza scenica abbondante, bella, brava, insomma, tutto quello che si vuole. Certamente... c'era molto più dibattito sul tenore, no? Iusi e Ivazov, che è il compagno, tra l'altro, della Netrebko, e che era Andrea Chenier, qualcuno dice che ha una vociaccia, però sì, la vociaccia, che è brutto dirlo a questo livello, è brutto dirlo, però vociaccia. Gli appunti erano perfetti, i legati ci sono stati, la potenza c'era. Qualcuno lo chiama un tenore leggero, io lo chiamerei un tenore che ha studiato bene la parte e che forse è stato messo in condizioni di fare un buon risultato. Se si faceva un giro sui social prima della prima, e si vedeva i legionisti già in agitazione, dicevano, supponevano, eccetera, così, quindi diciamolo pure che c'era un po' di paura. Però c'è anche da dire che ha molto aiutato la regia di Mario Martone, una regia finalmente senza mucchiate, senza motorette, senza quelle cose. Si era, che so io, alla fine del Settecento c'era la Rivoluzione Francese, nessuno più controllava i processi, la giustizia, quello che stava accadendo, quindi qualcuno ci perse la testa. Non la perse solo il povero Chenier, la perse anche Lavoisier, cioè la chimica fu bloccata dalla ghigliottina proprio in quegli anni. E Giordano poi è anche molto descrittivo, perché è vero che è un'opera verista, però c'è molta attenzione ai fatti, agli elementi, proprio tipico del verismo, e devo dire che la situazione creata sul finale, quando il boia alza la lama della ghigliottina senza lasciarla cadere, ricorda che quella lama è una minaccia per tutti, è una minaccia che si inserisce nella storia. Come dire, state attenti. Ecco, per quello io dico, era un'opera che poteva essere un po' meditata dai politici. Quindi verista, liberale e potremmo dire, con una bestemmia del gergo di questi tempi, garantista. Ma garantista. garantista, sì, fa vedere cosa succede con le rivoluzioni. Beh, insomma, sì, appunto, non è così essere garantisti, essere contro il, essere contro il terrore viene ancora prima dell'essere garantisti, per così sì, dire. No, tagliare le teste così come se fossero campi da mietere. Io spezzo anche, spezzo anche da sostenitore, c'è un grande baritono che ieri interpretava una parte, io capisco che bisogna sempre parlare dei tenori e quindi dei soprani, eccetera, eccetera, certo, sì. Però siccome amo la musica e spesso tocca ai bassi e ai baritoni fare il lavoro più straordinario e impegnativo che pensino molti, beh, ieri ce n'era in scena uno di quelli che straordinari, perché la scuola italiana su questo, sto parlando dell'interprete di Gerard, almeno io sono un sostenitore, magari il nostro osservatore lì poi ci dice ieri sera non mi ha convinto, com'era la parte affidata a Salsi? A Salsi, Carlo Gerard. Ma dunque lui, devo dire, è uscito molto bene, anche perché non è una parte facile, esatto, diciamo così, esatto. La tregenia. Devo dire, l'ha interpretata bene, ma come stavo dicendo, anche il tenore dovrebbe, che so io, avere tutta una vocalità che funziona perfettamente quando c'è la prima parte, e poi dovrebbe ovviamente lasciare spazio a singulti, a incertezze, eccetera, nella seconda. Questo non è possibile. Salsi invece, che aveva quella partaccia, chiamiamola così, io direi che ci è riuscito perfettamente, sì. E indubbiamente forse qualcuno rimarrà perplesso, dice ma c'è un po' di volgarità, ma doveva essere tale, interpretava una parte che aveva degli spazi di volgarità. Però devo dire, una buona prima della Scala, una buona prima della Scala, non so giudicarla dal foyer perché purtroppo ho fatto collegamenti, ho scritto durante, diciamo che c'è stata qualche contestazione per il rosso degli abiti che richiamava inevitabilmente anche il colore della ghigliottina. Ricordo che le ghigliottine erano dipinte di rosso per aumentare il terrore, e le tricoteuse erano forse più inquietanti del rosso della ghigliottina, queste che facevano la calza intorno alle cose. Lì qualcosa si è visto, qualcosa è stato. Grazie Armando, hai dormito poche ore veramente e ci hai restituito la cronaca, come sentire l'eco, come esserci anche noi nel foyer, almeno dietro di te, e ti speriamo di sentirti presto e ti salutiamo. Oscar, stiamo quasi arrivando alla chiusura, ti volevo segnalare questo pezzo di Davide Allegranti molto interessante sul Foglio, che parla delle simulazioni nei collegi e spiega come in base alle simulazioni dello stesso PD nei collegi del Nord il distacco fra centro-sinistra e centro-destra è quasi incolmabile. Mi ha colpito molto perché dietro la facciata poi ci sono i numeri, e quindi io non capisco ancora perché Renzi abbia voluto questa legge, ma però magari che, sbaglio. Tu hai visto che poi sui giornali esulta, almeno secondo alcuni, ha esultato anche al nodo di Pisapia e così via, dicendo ci avevano già fatto perdere fino a 6 punti, meglio recupereremo. Non lo so, anch'io sono un po' dubbioso. Ma allora perché lo corteggi per 6 mesi? Allora. Ma anch'io, infatti, mi posso solo augurare che queste indiscrezioni dei giornali magari siano un po' eccessive, perché sennò testimoniano davvero una schizofrenia notevolissima. Io ci tengo solo a dire, prima di salutare i nostri ascoltatori e di dare appuntamento alle 16, perché naturalmente sono in diretta anche oggi pomeriggio, siccome ho criticato più volte i carabinieri, però ecco, visto che ieri è esplosa una bomba anarchica contro i carabinieri a San Giovanni a Roma, lasciatemi dire che ovviamente tutto questo non ci deve far dimenticare che se mettere le bombe contro i carabinieri è una follia, e mai ho pensato se non che all'arma, comunque ci sia la stragrande maggioranza delle persone ligge ha un dovere, bisogna essere grati, ci mancherebbe. L'ultima parola oggi la diamo a un progettista di meccanico in modulare che ci scrive: ogni settimana ricevo proposte, il mio reddito netto è 2000 euro, responsabile di ufficio tecnico. Bravo, è l'Italia che lavora. Ci sentiamo a questo punto lunedì.